sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Specie, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, nella quale mi troverete al microfono solamente in parte. Sebastiano Barisoni sta arrivando, ha avuto un problema di ritardo di aereo, ma a testimonianza della grande capacità di coordinamento della squadra di Radio 24 prenderà il timone nel corso della trasmissione. 349-238-6666 per i vostri sms. Naturalmente è una giornata nella quale naturalmente, come ovvio, parleremo di Grecia, una giornata nella quale la Grecia ha presentato la sua proposta di estensione del prestito, degli aiuti all'Unione Europea per altri 6 mesi, una proposta che deve essere valutata dall'Eurogruppo che si riunirà domani. Curiosamente la Germania, prima ancora della riunione dell'Eurogruppo, ha ritenuto opportuno, con un comunicato ufficiale del Ministro delle Finanze, dire che quel piano non va bene. Ovviamente siamo in attesa dell'Eurogruppo di domani, vedere come si evolveranno le discussioni, vedere se questa presa di posizione tedesca ha un obiettivo di trattativa puro e semplice, insomma ci si guarda in cagnesco per poi ottenere qualcosa di più rispetto a quel piano, oppure è un niet, un no da parte dei tedeschi, o un nein per essere più precisi, dai tedeschi, molto più netto. Parleremo anche di riforme. Avete sentito poco fa nei 100 secondi di Radio 24, curati da Salvatore Padula, che arriva domani un Consiglio dei Ministri molto importante. Tra le cose che si devono decidere c'è sicuramente gli ultimi decreti attuativi per il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro. Sono temi dei quali ha parlato oggi anche il segretario generale dell'OCSE Gurria nella presentazione del rapporto dell'OCSE sul nostro paese, rapporto che evidenzia anche qua un fatto curioso. Il rapporto dice che l'Italia crescerà dello 0,4% nel 2014. Gurria, nel corso della conferenza stampa, ha modificato la previsione in corsa dando un più 0,6%, ma al di là di questo si stimola l'Italia innanzitutto a dare piena attuazione alla riforma del mercato del lavoro, che è una riforma giudicata molto importante evidentemente dall'OCSE, ma anche all'Italia di spingere sulle liberalizzazioni, in particolare per quanto riguarda le reti e le professioni. Sentiremo le voci tanto di Gurria, che parla tra l'altro un buon italiano, quindi non lo sentirete tradotto, tanto del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che è intervenuto alla conferenza stampa. Lui e il ministro del lavoro Poletti, particolarmente interessato evidentemente a queste questioni. Per quanto riguarda i mercati oggi, dopo un attimo di cedimento quando è arrivato il comunicato stampa del Ministero delle Finanze tedesco che diceva ai greci: no, il vostro piano non va bene così perché dovete mantenere gli impegni, dopo un attimo di cedimento hanno ripreso quota, sono positivi anche se non in maniera particolarmente energica, più 0,40% il FTSE MIB, più 0,40% anche il FTSE All Share, Parigi che guadagna lo 0,63%, Francoforte lo 0,26%, Londra in lieve calo dello 0,07%, positive anche oggi le banche con il Monte dei Paschi che guadagna il 4,6%, la Popolare Emilia Romagna il 4,20%, bene anche Fiat che guadagna il 3,6%, Autogrill il 2,3%, Moncler il 2,29%, in fondo all'Isino Tenaris meno 4,08%, Saipem meno 1,7%, Unice meno 1,5%. Ovviamente tratteremo anche di mercati. Iniziamo però dalle notizie in breve di oggi. come sempre dalle materie prime. Oro in lieve calo a 1211 dollari l'oncia e netto calo invece per il petrolio. Il WTI, quello quotato a New York, giù del 4,7%, appena sopra i 50 dollari al barile. Per quanto riguarda invece il Brent, il petrolio del mare del nord, quotato a Londra, meno 3,5% a 58,3 dollari al barile. Dati del petrolio con consegna d'aprile. Questa mattina la borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,36% ai massimi dal maggio del 2000. Tutto questo in scia all'ottimismo dell'economia giapponese e alla fiducia, che forse questo pomeriggio è un po' calata su una soluzione positiva della crisi greca. Da segnalare sempre in termini di dati economici quelli che arrivano dalla Francia, perché per la prima volta dall'ottobre del 2009 a gennaio si è registrata inflazione negativa, meno 0,4%. L'effetto però dovrebbe essere un effetto in parte dovuto al calo del prezzo del greggio, che è quello che sta sentendo tutto il pianeta. Dall'altra parte i saldi, così dice l'Istituto di Statistica francese. Della Grecia abbiamo detto in apertura, la richiesta di un'estensione di 6 mesi dei prestiti, degli aiuti da parte dell'Unione Europea, domani la riunione dell'Eurogruppo e la Germania che appunto ritiene opportuno intervenire già 24 ore prima dell'Eurogruppo dicendo che il piano greco così com'è non va bene. E poi c'è l'OCSE che oggi ha presentato il suo rapporto sull'Italia. Una crescita dello 0,4% quest'anno e dell'1,3% nel 2016. La promozione sostanziale del programma di riforme. Dopo un lungo periodo di stagnazione, l'Italia sta intraprendendo un programma di riforme ambizioso e di ampio respiro per stimolare la crescita. E poi alcune raccomandazioni, tra cui per esempio il fatto di prendere in considerazione una bad bank pubblica. Come si diceva, elemento interessante e anche abbastanza inusuale il fatto che, a fronte di una previsione contenuta nel documento di un più 0,4%, il segretario generale dell'OCSE, Gurria, si sia sentito di correggerla in corsa sostanzialmente, dicendo probabilmente l'Italia quest'anno crescerà dello 0,6%. Sentiamo. Abbiamo i cifre dell'ultimo trimestre, no? Che sono flat, che sono molto piatti, ma che già non sono negative, ma che hanno una tendenza a diventare positive. C'è un'inflessione. Infatti ieri è apparito oggi, credo, noi abbiamo pubblicato qualche cosa nell'OCSE, che è l'ultimo calcolo. E noi sappiamo che abbiamo preso un po' di rischio di dire che nella nostra pubblicazione dice 0,4 e io nel mio discorso dico 0,6, ma è soltanto che abbiamo preso tutto quello che sappiamo oggi, petrolio, la politica monetaria, ma anche, come dico, una migliore prospettiva economica generale, in Italia in particolare. Allora, grazie a Simone Spezia, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Grazie molto a Simone Spezia, che ritroverete domani a Effetto Giorno e anche a Focus Economia, perché domani condurrai anche Focus Economia. Chiedo scusa per il ritardo, bloccati dagli aerei e dai ritardi degli aerei. Andiamo avanti con quanto già raccontava Simone Spezia, nel senso che Gurria ha stimato uno 0,2 in più, quindi da 0,4 a 0,6%, e ha poi aggiunto che il vero motore del cambiamento per l'Italia potrebbe essere il Jobs Act. Domani c'è un consiglio dei ministri importante, vi sarà il tema anche quello, oltre che il tema e le modifiche annunciate tra ieri e oggi dal ministro Poletti, alcune sono piaciute ed altre meno. Ci sarà anche il tema del bilancio, della punibilità, quanto emerso a fine dicembre con la soglia del 3%. Ne parleremo più avanti. Detto ciò, dopo il commento di Gurria dell'OCSE è intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha detto: beh, l'OCSE ci sta dicendo che la direzione presa dal governo è quella giusta. Io credo che il rapporto dell'OCSE ci dice chiaramente che è quella giusta e che, soprattutto se si estrapola nel futuro l'impatto delle manovre e delle misure che il governo ha preso e andrà prendendo, I risultati si vedranno e saranno significativi sia in termini di crescita che in termini di occupazione che in termini di ulteriore stabilizzazione della finanza pubblica e di abbattimento del debito. Stiamo parlando di un 6% aggiuntivo di PIL rispetto a quello che l'economia senza riforme produrrebbe da sola. Quindi è un beneficio gigantesco che con un nuovo mercato del lavoro produrrà più occupazione e con più occupazione, oltre che più ricchezza, ci sarà anche più fiducia nella società e nei cittadini e questo a sua volta sarà un ulteriore fattore positivo. E poi sul Jobs Act, dicevo, domani in Consiglio dei Ministri, il ministro Padoan è intervenuto di nuovo sul tema e ha detto produrrà più occupati. Sapete che è uscita in fase parlamentare, è uscita la parte che riguarda, dovrebbe essere uscita la parte che riguarda, poi vedremo quale sarà la versione definitiva, perché l'iter parlamentare non si è ancora concluso, ma è uscita la parte che riguarda i licenziamenti collettivi. Dicevo, il ministro Padoan ha detto produrrà più occupati, il beneficio sarà enorme. Speriamo. I benefici in termini di PIL, stiamo parlando di un 6% aggiuntivo di PIL rispetto a quello che l'economia senza riforme produrrebbe da sola. Quindi è un beneficio gigantesco che con un nuovo mercato del lavoro produrrà più occupazione e con più occupazione, oltre che più ricchezza, ci sarà anche più fiducia nella società e nei cittadini e questo a sua volta sarà un ulteriore fattore positivo. Poi un tema di cui, su cui torneremo nella seconda ora del programma, il rapporto dell'Istat di oggi. Attenzione, il rapporto chiaramente si riferisce al 2013, ecco perché poi purtroppo con la velocità del cambiamento diventa meno pregnante, ma fotografava nel 2013 praticamente un'Italia in cui lavoravano meno di 6 persone su 10, il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni, cioè chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare, che cosa diversa, come spieghiamo sempre, dalla disoccupazione. E dicevo, il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni è sotto il 60% e siamo il paese più basso nella graduatoria. Solo Grecia, Croazia e Spagna hanno valori peggiori di noi. E poi sempre l'Istat a ricordarci che una famiglia su 4 vive un disagio economico, si tratta di quasi 15 milioni di persone. Per quello che riguarda i NEET, i giovani che non studiano né lavorano, not educated employment. Allora, da quel punto di vista siamo messi, peggio di noi è messa solo la Grecia, perché non studiano né lavorano 2 milioni e mezzo di ragazzi sotto i 30 anni, è il triplo del dato che ha la Germania. Noi abbiamo un rapporto del 26% di chi ha meno di 30 anni, la Germania ha l'8,7% e comunque anche la Francia ha il 13%. La Germania ci batte in un'altra cosa invece, ha l'indice di vecchiaia più accentuato dell'area europea, noi siamo al secondo posto però, non mi chiedete come, sostanzialmente l'indice di vecchiaia si compone facendo un rapporto tra quanti vecchi ci sono per 100 giovani, noi abbiamo un rapporto di 140, poi vecchi molto brutta come parola, 140 anziani ogni 100 giovani e la Germania 158 anziani ogni 100 giovani. C'è una cosa interessante che fotografa l'Istat nel rapporto Noi Italia. L'offerta pubblica di servizi per l'infanzia è ancora molto disomogenea a livello territoriale. Traduco, i servizi pubblici funzionano bene, capirai che notizia aggiungo io, al centro-nord, funzionano male, maluccio o malissimo al centro-sud. Pensate che al centro-nord i bambini che usufruiscono dei servizi per l'infanzia, gli asili nido pubblici, sono il 18%. E i bambini che usufruiscono di asili pubblici nel nostro mezzogiorno sono al 5%. Però siamo il paese che ama più di tutti le auto, siamo il paese più motorizzato dell'Unione Europea. 608 vetture, come ognuno di noi quando viaggia nelle città italiane può ben capire, 608 vetture per 1000 abitanti, ci batte solo Lussemburgo, però sai, Lussemburgo non è che proprio faccia testo da questo punto di vista. Ancora, per quello che riguarda il famoso digital divide, quindi la differenza, lo scarto che si crea in alcune aree del paese quanto a copertura della banda larga, praticamente sono connessi solo il 57,3% degli italiani. Il digital divide sta anche a significare un nuovo tipo di se non di, tanto di classismo, ma di divisione e di gap all'interno anche di una popolazione, perché chi è connesso ha ha possibilità maggiori e anche di trovare lavoro oltre che di lavorare. Allora, da noi abbiamo un 57,3% di italiani che sono connessi contro il 72% della media dei 28 paesi europei. Tutto questo rapporto, lo dico perché mi state scrivendo, lo si può leggere per esteso nel sito dell'Istat, è il rapporto che si chiama Noi Italia 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo, oppure per non capirlo, dipende come vengono lette. Infine, la pressione fiscale. Solo in Francia c'è una pressione fiscale più alta che in Italia, chioso, con servizi però ben diversi dati al cittadino. Noi abbiamo il 43,3% della pressione fiscale. Se guardiamo invece l'Unione a 28 e non a 19, cioè non l'euro, beh, a 28 siamo al sesto posto. Ancora sulle banche popolari, non torno sul tema di quello che è successo a Veneto Banca, le accuse pesantissime che ci ha raccontato ieri Fabio Pavesi, non torno sul tema della Popolare Etruria Lazio, anche qui una gestione e soprattutto una politica di remunerazioni inaccettabile visti i risultati. Non abbiamo mai detto che le popolari non sono vicine al territorio, ho detto che, attenzione, gli scandali di alcune popolari dimostrano che non c'è una verginità da una parte e così il male tutto dall'altra, nel senso che esistono i casi del Monte dei Paschi, ma esiste il caso anche appunto della Popolare Etruria Lazio, molto diversa di loro, o delle accuse mosse a Veneto Banca. Ci fu la Popolare di Lodi, come vi furono banche che lavorano male sul territorio, e pensiamo alla vecchia Unicredit, quanta presa aveva perso sul territorio con questa idea un po' assurda della banca universale in cui si decidevano i prestiti in luoghi distanti da dove i prestiti avvenivano. Però a me non piace questa idea che il mondo delle popolari è tutto bello, tutto pulito, tutto vicino al territorio. No, è anche un luogo in cui, grazie al voto capitario, vengono posizionati nei luoghi dirigenti persone, diciamo, per altri motivi, per la loro importanza nel territorio. E attenzione a quello che si diceva ieri alle popolari non quotate, il caso di Veneto Banca deve insegnare. No, perché lo dico? Perché oggi di nuovo Asso Popolari torna in audizione alla Camera a parlare del tema, dice se la riforma che leverà sostanzialmente il voto capitario, una testa un voto, e il limite al possesso azionario rischia di far arrivare speculatori, soggetti dai connotati speculativi. Questo è l'effetto di trasformare le banche popolari in SPA, ripeto, è solo per le banche sopra gli 8 miliardi. E poi Frattapasini, presidente del Banco Popolare, Carlo Frattapasini, ha detto attenzione, il disegno di legge sulle banche popolari porterà gli istituti a essere filiali di gruppi stranieri e avremo altre 7, 8, 10 BNL cari Parma che sono controllate da gruppi stranieri. Ora, sapete com'è? Io potrei anche rispondere che quello che è importante è capire se BNL e cari Parma lavorano bene o male sul territorio. È il famoso paradosso di Wimbledon, citato dal compianto compianto sicuramente perché è scomparso Padoa-Schioppa. Cioè, a un paese serio come la Gran Bretagna non interessa che giochi un inglese a tennis, interessa che il torneo principale al mondo, o uno dei principali al mondo, si tenga in Gran Bretagna. Questo significa essere competitivi. Allora, a me, che BNL sia di Benpe Paribas e cari Parma pure sia francese, mi interessa relativamente come lavorano sul territorio, prestano soldi, hanno avuto vicende, visto che parla Carlo Frattapasini, tipo Italis, caro Banco Popolare. No, perché bisogna ricordarsi tutte le storie prima di dar lezioni e citare. Sono vicini all'imprenditorio, sono vicini agli amici degli amici e del territorio, come hanno fatto alcune banche popolari. Ancora Piero Giarda, presidente del comitato di sorveglianza della BPM, attenzione, le banche straniere mirano al risparmio italiano. Ho capito, ma allora cosa vuol dire? Che le SPA quotate sul mercato in questo momento, cioè le altre banche, sono tutte oggetti di speculazione? Non mi sembra proprio, non mi sembra che Intesa sia nelle mire di un gruppo straniero o Unicredit pure, anzi Unicredit ha comprato banche straniere. Allora va bene se compriamo Bank of Austria o Hypo Vereins Bank, ma non va bene se ci comprano. Veramente non capisco la logica. Organizzeremo, aggiunto Giarda, un seminario alla Madonna di Loreto affinché siate ispirati nelle soluzioni che dovete prendere. Vabbè, questo può essere una nota, è una battuta. Al seminario della Madonna di Loreto, però, aggiungo io, caro Presidente Giarda, fra un po' vanno gli azionisti di alcune banche, tra cui Popolari, per chiedere che cosa capiterà delle azioni che hanno comprato spesso perché suggerito e obbligati, secondo l'accusa da alcune delle banche in questi giorni nell'occhio del ciclone. E tant'è che il ministro dell'economia Padoan risponde: attenzione, aiutateci con un'autoriforma, che è il vero tallone d'Achille del mondo delle popolari. Finché il governo non è uscito con una legge, dal mondo delle popolari, in 15 anni che se ne parla, non è uscito uno straccio di proposta. Perché saresti più credibile, e sarebbero più credibili, se avessero proposto qualcosa queste banche popolari. Invece nulla, la foresta pietrificata è rimasta lì. Era di Calvi, se non ricordo male, di Carli, se non ricordo male la definizione, il lapsus, è rimasta immutata. E adesso tutti a correre ripari perché il governo ha messo un decreto. Lo chiede comunque un aiuto lo stesso ministro dell'economia e dice: dateci una mano con un'autoriforma. E attenzione, nel mondo delle banche popolari ci sono anche banche troppo piccole, oltre che, diciamo, legate al territorio. Noi abbiamo introdotto il decreto sulle banche popolari essenzialmente per una ragione: per aiutare le banche ad adeguarsi ad un ambiente di integrazione finanziaria, di regolazione europea, che è molto diverso da quello che vigeva fino a poco tempo fa. Quindi è una opportunità, necessità per le banche di rafforzarsi anche attraverso un mutamento della governance. Questo è assolutamente possibile mantenendo la compatibilità con i cosiddetti valori del territorio, che sono importantissimi, e sono importanti sia per le popolari che le banche di credito cooperativo. Quindi c'è un invito intanto al settore delle banche di credito cooperativo a immaginare ipotesi di autoriforma. È veramente, se posso dirlo, stucchevole questo atteggiamento di tutto il mondo delle banche popolari. Adesso, la riforma l'abbiamo criticata nel metodo, perché un decreto d'urgenza forse non era necessario, però io non si può, onestamente, lo dico a tutti i rappresentanti delle banche popolari, li conosco personalmente quasi tutti, però non si può negare l'evidenza dei fatti, l'evidenza storica. Il professor, nonché presidente Piero Giarda, non può dimenticare che prima di lui c'era una persona che si chiama Massimo Ponzellini, alla Popolare di Milano, che è sotto processo. Il GUP di Milano, Alessandro Simeone, lo ha rinviato a giudizio oggi, assieme a altre 13 persone, per la vicenda dei presunti finanziamenti illeciti concessi quando Ponzellini guidava l'istituto di credito. Vedremo, perché è un rinvio, mica una sentenza. Vedremo, ci mancherebbe, il processo si aprirà il prossimo 16 giugno. Quello che è stucchevole, però, è questa raccontare il mondo delle popolari come se fosse un mondo di sole verginelle, ok? Non è così. Monte dei Paschi è stata una porcata di dimensioni galattiche, ci sono 3 inchieste in corso, ma non è che la vicenda della Popolare di Lodi fosse una vicenda molto diversa, o meglio, non è che ma vi ricordate che Fiorani prelevava i soldi dai defunti? Ma ce lo ricordiamo, perché qua la memoria di questo paese scompare con un Alzheimer collettivo. La vicenda di Tallis, molto diversa, ma ha distrutto risparmio, altro che territorio, proprio degli azionisti dell'ex Popolare di Verona, caro Fratta Pasini, su questo. Il Veneto Banca sta a dimostrare che forse la governance dei popolari non è così vicina al territorio, così mai vicina agli interessi, diciamo, di alcuni. Popolare Etruria Lazio pure, non mi sembra che le paghe e gli stipendi che si davano i vertici di Popolare Etruria Lazio fossero decenti e degni dell'andamento della banca attualmente commissariata. Per cui smettiamola, perché è una battaglia di retroguardia, e mi sono fermato qui perché non voglio nemmeno raccogliere gli spunti che arrivano da alcune fonti che abbiamo e dagli sms di chi scrive di altre banche popolari, ok? Di altre banche popolari, perché non abbiamo elementi e non facciamo supposizioni. Però quelli che abbiamo citato sono fatti accaduti nel passato, ok? Allora, per favore, diteci che tipo di riforma vorreste. Basta gridare all'invasione dello straniero che viene a saccheggiare il mondo delle popolari. Ma che è? E ripeto, allora le altre quotate cosa sono? In balia dei barbari, degli unni, degli ostrogoti? Per favore. Allora, così li faccio ancora più arrabbiare oggi le banche popolari, con contro cui non ho niente, ma non è assolutamente, non regge la risposta che hanno dato, colti con le mani nella marmellata, perché uno straccio di proposta loro ancora non l'abbiamo vista, evidentemente non c'era, che la scrivono in fretta. Oggi, a proposito di banche, presentato l'accordo tra il gruppo Intesa San Paolo e Confindustria, piccola industria, che prevede 2 miliardi e 600 milioni di fondi per la crescita per le imprese lombarde. Lo dico a chi scrive ogni tanto, non sono correntista, diciamo, né di Intesa né di Unicredit, proprio non sono in conflitto di interessi, anzi, se vogliamo. Comunque, grazie all'accordo migliorerà l'accesso al credito e viene sostenuto che fa innovazione. L'ho spiegato Stefano Barresi, responsabile della parte marketing della banca del territorio di Intesa San Paolo. Con il 2014 si è decisamente definito uno spartiacque. Allora, noi abbiamo, vi dico orientativamente, una fascia alta, ma non per il fatturato, per le condizioni che queste imprese sono riuscite a raggiungere nell'arco della crisi, e sono, guardi, orientativamente, parlo come gruppo, circa 20.000 aziende, sono quelle che noi definiamo aziende top, cioè aziende che già oggi, a prescindere dai livelli di fatturato, sono aziende che già esportano per oltre il 30% del loro fatturato, hanno una componente importante di innovazione all'interno della loro azienda, che noi possiamo tracciare per esempio attraverso la presenza di brevetti o attraverso anche una presenza importante di spese di ricerca e sviluppo, che è un ulteriore di quegli elementi che noi vogliamo tracciare e stiamo tracciando per il riconoscimento nella rete qualitativo, e sono aziende che chiaramente ce l'hanno fatta grazie a questa loro capacità di diversificazione, non soltanto in termini di mercato, ma anche dal punto di vista dell'innovazione e quindi sul prodotto piuttosto che sul processo. L'accordo con Confindustria che cosa porterà a queste aziende? Beh, sicuramente è la riconoscibilità, cioè l'accordo con Confindustria deve facilitare nei confronti delle aziende che fanno parte chiaramente della confederazione, deve facilitarne la conoscenza e quindi naturalmente la predisposizione dell'azienda nel dare alla banca tutta quanta una serie di informazioni che normalmente queste non vengono fornite. E poi la valutazione di Alberto Baban, che è il presidente della piccola industria di Confindustria, sempre al microfono della nostra Anna Marino, e sempre sull'accordo che prevede 2 miliardi e 600 milioni di fondi per la crescita delle imprese lombarde, va specificato. Mentre parlavamo è arrivata un'agenzia che riguarda Veneto Banca, la procura di Treviso sta indagando anche per, ha aperto un altro fascicolo di indagine per il reato di aggiotaggio nei confronti di alcuni soggetti a vario titolo collegati agli amministratori di Veneto Banca. Tra l'altro l'inchiesta la sta conducendo la procura di Roma, perché l'ostacolo alla vigilanza è la vigilanza della Banca d'Italia. Questa è quindi la procura di Treviso. Le persone interessate, di cui ancora non si precisa né il numero né l'identità, sono iscritte formalmente nel registro degli indagati. L'affare si ingrossa, come diceva la segretaria all'avvocato Baban. L'interesse non è delle singole imprese, l'interesse è proprio di percepire il sistema, come si sta modificando il sistema e quali siano le qualità che deve avere il sistema per poter crescere. Quindi bisogna spingere su queste imprese e su questi ecosistemi. Dopo l'iniziativa della BCE, secondo lei è diminuito il problema dell'accesso al credito da parte delle imprese nei confronti delle banche? Guardi, è chiaro che l'iniziativa della BCE è da ritenere una politica economica espansiva, e quindi è chiaro che anche abbia modificato un approccio che prima era fin troppo restrittivo. Siamo passati forse da una fase di credit crunch dovuto all'indisponibilità ad una fase che sta mettendo a fattor comune l'idea che il credito serve per la crescita. Adesso noi dobbiamo però riuscire a fare atterrare questa grande disponibilità di liquidità sul sistema impresa, perché oggi non possiamo essere ancora così ottimisti e pensare che sia finita questa indisponibilità. È un primo accesso, e tra l'altro c'è un dato da rilevare, che stiamo parlando di una massa di liquidità veramente impressionante. Dobbiamo approfittarne e pensare che questa serve non per risolvere i problemi in corso, ma per diventare un booster, un acceleratore per la crescita. A Allora, vedremo anche su Veneto Banca, no? A proposito degli stranieri, dei barbari alle porte di Roma. Beh, insomma, scrive un ascoltatore, meglio uno straniero onesto che un italiano ladro. In generale parla, come gestione della banca. Nessuno ha detto che questi siano ladri. Oddio, le accuse sono pesantine, E la Etruria Lazio è stata commissariata. Però dico, chi se ne frega del passaporto? Gestisci o non gestisci? Aiuti gli amici, aiuti il territorio. Ti dai i bonus e le politiche di remunerazione come vuoi tu, perché è una partita di giro, o lo dai in base ai risultati? Queste sono le cose importanti se gestisci una banca. Ma chi se ne frega se sei francese, italiano, tedesco? Confermo che la lettera è stata inviata dal governo greco al presidente dell'Eurogruppo e al presidente della Commissione europea Juncker. Nella lettera si richiede l'estensione del Master Financial Assistance Facility Agreement, che è il termine legale per descrivere il programma di assistenza. Il presidente Juncker ha tenuto intensi colloqui con il presidente Dijsselbloem e il primo ministro Tsipras ieri sera fino a tarda notte e anche questa mattina. In questa lettera si vedono segnali positivi che potrebbero aprire la strada a un ragionevole compromesso nell'interesse della stabilità finanziaria dell'intera eurozona. I dettagli della lettera e le risposte a essa spettano ora all'Eurogruppo, che sarà sostenuto nel processo decisionale dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni. Di nuovo in diretta con Focus Economia. Avete capito, abbiamo cambiato tema perché ci stiamo occupando adesso della Grecia. Dove questo che avete appena ascoltato è il commento del portavoce del presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker, che ha detto: la lettera che Atene finalmente ci ha mandato spiana la strada verso un accordo ragionevole. E la Grecia ha detto: attenzione, il Fondo Monetario ha detto: il programma del Fondo Monetario sulla Grecia va avanti, le attuali discussioni riguardano l'eventuale estensione del programma europeo, serve un accordo forte e credibile. A rovinare la festa a Varoufakis e a Tsipras però è arrivata la Germania. Devo dire, forse è una notizia, che stavolta secondo me la Germania un po' di ragione ce l'ha. Come mai? Allora facciamo una cosa, mandiamo il meteo, buonanotte, mandiamo il traffico e poi Vittorio Darold, vediamo se è d'accordo con me. Forse questa volta i tedeschi hanno ragione, non è che debbano aver torto per definizione. Perché questa lettera, sì, contiene qualche promessa, qualche programma, ma non c'è un accenno alle riforme, un accenno al debito. Di nuovo in diretta, dicevamo, forse questa volta in questo caso la Germania ha ragione. Mi sta massacrando un ascoltatore che dice: ma come fa a dire che i tedeschi hanno ragione dopo che hanno affamato con la Troica la Grecia? Guardi, cioè, è 3 anni che li critichiamo anche per questo. Però nell'arrabbiarsi, fermo restando che c'è un po' di maretta anche dentro il governo di Angela Merkel, perché il vice cancelliere Sigmar Gabriel ha detto: no, la proposta del governo greco è un primo passo nella direzione giusta. Invece Schäuble, il falco, l'ha bocciata, ha detto: no, non va bene, non respingiamo la richiesta di prolungamento degli aiuti. Ogni tanto la Germania si dimentica che non è Bruxelles, è Berlino. Lasciate parlare l'Europa, visto che la Troica è fatta di Fondo Monetario, Commissione Europea e BCE, se no ogni paese dice la sua. Non si capisce perché i tedeschi parlino come se forse ormai sono così in confusione anche collettiva e psicanalitica collettiva, che pensano di rappresentare da soli tutta l'Europa. Ma qualche ragione ce l'hanno, Vittorio Darold. Sì, esattamente. È vero che la lettera di Varoufakis contiene 3 punti importanti di, diciamo, avvicinamento, cioè accettano di rispettare le obbligazioni con i creditori, diventano, diciamo, escludono azioni unilaterali e dicono sì, anche se indirettamente, alla Troica, cioè il controllo della UE, BCE e Fondo Monetario. Ma il problema è che non accettano le cosiddette riforme tossiche, secondo i greci, cioè quelle riforme che il Fondo Monetario negli ultimi 5 anni ha fatto sul fronte, appunto, dell'offerta, cioè le riforme del lavoro, la riduzione dei dipendenti pubblici, la riduzione del salario, tutti meccanismi che hanno aumentato la possibilità di investire in Grecia e quindi la sua competitività. della lettera invece c'è scritto che sono disposti a fare riforme per aumentare l'occupazione e la crescita, cioè tutte riforme sul lato della domanda, che vuol dire tradotto riassumere i dipendenti pubblici, alzare i salari minimi, bloccare la legge che consentiva i licenziamenti collettivi. E poi mancano le privatizzazioni, non c'è più un accenno a un solo euro di privatizzazione e non c'è nessun impegno se non quello di mantenere il debito, cioè non a farlo scendere, e quindi il surplus che era scritto al 4,5 probabilmente verrà ridotto. Allora, ho detto, la Germania ha ragione, nel senso che questa lettera è debolina, e lo riconosce anche un collega del Sole 24 Ore che da sempre segue la Grecia, Vittorio D'Arold, che non mi sembra particolarmente filo tedesco, però insomma è debolina, cioè bisogna stare attenti a non giocare con le parole e a non giocare con le tre carte, soprattutto nel caso di Varoufakis e Tsipras. Detto questo, come sempre faccio l'avvocato del diavolo. Probabilmente Varoufakis e Tsipras dicono: beh, se noi iniziamo a mettere nella lettera anche la riduzione del debito, tutte quelle riforme o quegli interventi per aumentare il potere d'acquisto di un paese in ginocchio e dove ci sono interi strati della popolazione, soprattutto nei grandi centri urbani, che vivono in povertà, dove addirittura si è mossa l'UNICEF, si è mossa il Médecins Sans Frontières, non le potremo mai fare, non potremo mai ridare la tredicesima, non potremo mai sbloccare i salari. Sì, è possibile che sia così. Loro naturalmente stanno facendo un negoziato e quindi stanno cercando di portare a casa il meglio, anche perché se Tsipras non torna a casa con un minimo di, diciamo, minore austerità, il suo governo ha i giorni contati, perché naturalmente la situazione è talmente difficile, con il 25% di disoccupazione, il 50% di disoccupazione giovanile, il 40% della popolazione che è sulla soglia di povertà e i non performing loan, cioè i debiti di gente che non paga le banche sui consumi, dato della Banca Centrale Greca, è al 50%, cioè un greco che ha preso dei crediti su per i consumi, per i piccoli consumi, prestiti al consumo, non sta restituendo i soldi. Quindi stiamo in una situazione dove le banche sono praticamente in affanno di liquidità. Faccio notare che oggi Standard & Poor's dice che un'eventuale uscita della Grecia dall'euro provocherebbe rischi limitati di contagio verso gli altri rating sovrani. Va buono, prendiamo atto. La Banca Centrale Europea, un portavoce della Banca Centrale Europea ha detto che nel Consiglio Direttivo di ieri non si è parlato dell'introduzione di controlli della circolazione del capitale in Grecia. Infine, domani l'Eurogruppo discuterà delle richieste della Grecia, lo ha chiarito il ministro delle finanze irlandese Michael Noonan, perché l'Irlanda ha la presidenza del semestre, se non ricordo male, vado a memoria, però non vorrei dire una cavolata, forse no, che non ce l'ha l'Irlanda. No, però forse ha più esperienza. Ha più esperienza sulla ristrutturazione, aggiungendo che sulla Grecia sono stati fatti progressi, quindi come vedete poi anche le posizioni europee sono molto sfumate tra di loro e molto diversificate. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo moltissimi messaggi ancora su Grecia e Germania. Guardate, insomma, che la situazione greca sia di povertà vera e diffusa nelle metropoli, l'abbiamo raccontato. Non è vero che abbiamo solo giornalisti tedeschi, abbiamo avuto giornalisti tedeschi a spiegare le ragioni della Germania e a criticarle noi, queste ragioni, e abbiamo avuto giornalisti greci a raccontarci anche che cosa non funzionava in Grecia, perché la Grecia ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, tasso di corruzione, tasso di evasione fiscale record, batte anche l'Italia, e c'era un settore pubblico stragevolato. Adesso siamo al fronte opposto, è vero che gli armatori in Grecia non pagano le tasse, fa parte del programma di Tsipras, è verissimo, nessuno sta sottovalutando le difficoltà e l'umiliazione, come l'abbiamo chiamata alcune volte, inferta al popolo greco per errore dei suoi governanti in primis, ma anche di una visione troppo punitiva e stupida, perché se la Grecia collassa il debito non te lo ripaga sicuramente, i debiti non te li ripaga sicuramente. Detto questo, che la Germania possa avere ragione questa volta, cioè che nella lettera di Tsipras, nella lettera del governo greco, di Varoufakis, la lettera in realtà del ministro delle finanze, vi sia un po' di amuina, di gioco delle tre carte, di mescolare queste carte soprattutto, ma anche qualunque riferimento al debito, questo è vero. Dopodiché, ripeto, la Germania è uno dei paesi dell'Unione Europea, dell'area euro, dei 19 paesi. Parlerà domani l'Eurogruppo su questo. Veniamo alla borsa, più 0,60%, poi l'ultimo tema sarà invece il Consiglio dei Ministri italiano di domani, che dovrà dare via al dare l'ok definitivo al contratto tutele crescenti, Jobs Act, ma anche il disegno di legge sulle liberalizzazioni e la normativa fiscale, soprattutto per quello che riguarda la soglia di non punibilità. Detto questo, la borsa più 0,60%, Milano più 0,70%, Parigi meno 0,13 Londra e invariate in questo momento l'America. A casa nostra i titoli migliori si chiamano Monte dei Paschi più 4,70%, Pop Emilia Romagna più 4,13%, poi Fiat più 3,90%, Moncler più 2,5%, GTEC più 2,30% come Autogrill ed Exor. Il fronte opposto invece vede Tenaris perdere 4,16%, Saipem l'1,60%, Buzzi Unice meno 1,20% come Telecom, l'1,1% lo perde. Lo ha perso ST Microelectronics. Allora, giustamente un ascoltatore ci dice che ormai il valore del Monte dei Paschi di Siena è vicino al prefisso telefonico di Siena 0577, e il prefisso, se non ricordo male, il titolo vale, l'ultimo prezzo è 0557. Ci siamo. Una volta si diceva valori da prefisso telefonico, ma non vogliamo essere offensivi. Leonora Micheli, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. No, è 0577 prefisso. Esatto, 0577. Tu sei senese e esatto. Lo sai. Allora, detto questo, è l'unico rapporto che hai con l'unica vicinanza che hai con Monte dei Paschi, voglio essere chiaro. Monte dei Paschi più 4,70, di nuovo le popolari, di nuovo ragionamento sulle fusioni che ormai domina nel settore bancario da quando il governo ha annunciato il decreto sulle popolari. Esatto, riflettori accesi sulle popolari, visto che si pensa che la riforma delle popolari inneschi una serie di fusioni e acquisizioni. Si parla già di due poli, magari uno sotto il Banco Popolare, l'altro sotto la BPM. Per ora sono ipotesi che comunque riscaldano la borsa. Per quanto riguarda MPS ci si interroga sull'eventuale interesse da parte di fondi, si parla di fondi asiatici che potrebbero sottoscrivere le azioni durante l'aumento di capitale che verrà lanciato, ricordiamo, nel secondo trimestre, aumento di capitale da 3 miliardi di euro. Ancora per quello che riguarda i titoli oltre al popolare, Fiat ha guadagnato tantissimo ieri, per carità, c'è stato anche la visita del Presidente del Consiglio a Mirafiori, però il titolo è in netto rialzo, è solo, diciamo così, un adattarsi anche alle prospettive di crescita, o c'è dell'altro sotto? Sono dei report molto positivi su Fiat, ad esempio un report interessante di Exxon e BNP Paribas dice che non è solo Ferrari che praticamente sostiene l'andamento delle azioni in borsa di Fiat Chrysler, anche se Ferrari risulta essere sicuramente il marchio più glamour del gruppo, ma potrebbe fare altrettanto innanzitutto Maserati, che potrebbe fare una vera e propria exploit. Inoltre potrebbero andare bene modelli, ma in più Exxon e BNP Paribas si pone anche l'interrogativo se sia ceduta Magneti Marelli e se soprattutto Fiat Chrysler Automobile verrà fusa con un altro competitor. Insomma, sicuramente Marchionne, come ci è abituati, farà di nuovo delle sorprese, e quindi ad esempio la banca d'affari scommette proprio sui titoli Fiat Chrysler Automobile. Allora, Telecom Italia invece, perché lo dico? Allora, il titolo ha perso l'1,25%, è da pochissimo, in questi istanti l'agenzia non botta la notizia che è stata approvata la fusione per incorporazione dentro Telecom Italia di Telecom Italia Media, era annunciata. Ci sono anche i conti di Telecom, il titolo però cede l'1,25%. È stato debole tutta la giornata nell'attesa dei conti e nell'attesa inoltre del piano industriale, sì, che invece sarà svelato domani a Londra dai manager del gruppo. Ci si interroga, ovviamente ci sono dei punti da sciogliere, dei nodi da sciogliere, che sono appunto l'acquisizione di Metroweb, la eventuale acquisizione di Oi in Brasile, anche se secondo indiscrezioni sembra che non avvengano nel breve periodo, siano un po' congelati. E a questo punto non rimane che sentire gli analisti sui conti e sul piano industriale, che comunque verranno poi illustrati domani a Londra alla comunità finanziaria. Nell'attesa evidentemente il mercato ha preferito prendere profitto, le azioni comunque rimangono sopra la soglia dell'euro. Allora, l'annuncio di ieri è che Mondadori ha presentato un'offerta non vincolante per acquistare la RCS Libri, la Rizzoli Corriere della Sera Libri, che ha un valore come operazione stimato tra i 120 e i 150 milioni, ha mosso i titoli? Ha mosso i titoli, sì, ma solo in mattinata. I titoli infatti andavano bene, poi in verità hanno chiuso entrambi in ribasso di oltre l'1%, sia RCS sia Mondadori. L'operazione comunque piace molto agli analisti, ci sono giudizi positivi, sarebbe un'operazione appunto di cessione della divisione Libri che fattura sempre secondo gli esperti attorno ai 220 milioni di euro e ha diciamo un margine attorno ai 15 milioni. Ancora, scusatemi, per quello che riguarda i titoli, Eni, oggi invariata, regge abbastanza bene, dico il titolo, dopo i conti, sopra tutto l'ultimo trimestre e il prezzo del petrolio sempre vicinissimo ai 50 dollari del barile. Sì, oggi Eni è stata un po' zavorrata, così come Saipem, dall'andamento del greggio che appunto ha perso quota. D'altra parte ha perso anche il 5%, non ha perso poco. Tuttavia si può dire che gli analisti e anche i trader sono molto positivi, soprattutto sulla cedola distribuita da Eni di 1,12 euro. Più alta di quella dell'anno scorso. Esatto, e quindi rispetto all'andamento del titolo ha un rendimento molto generoso che di questi tempi, ovviamente con i titoli di Stato che rendono poco, fa piacere agli investitori. Allora, mentre oggi, come ricordavamo in apertura, la borsa di Tokyo ha chiuso ai massimi dal maggio del 2000, il rialzo è stato modesto dello 0,36%, ma interessante il livello raggiunto. Vi do i migliori e peggiori in assoluto, anzi prima vi do il valore dell'euro che in questo momento è a 1,1370, è fermo lì, non si è mosso praticamente da settimane. I migliori e peggiori della borsa oggi, migliori Worldspace più 14,30, Zucchi più 14, Edes più 10, Visibilia più 10, Geox più 6,94. Lo fronte opposto invece, Lucisano Media Group meno 8, Ambientesis meno 6,80, Tenaris meno 4, Agronomia meno 3,91 e Sintesi meno 3,60%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Di Focus Economia, adesso ci occupiamo dei temi che saranno analizzati domani dal Consiglio dei Ministri. Devo dare però una notizia che riguarda ancora la Grecia e la Germania, perché le agenzie stanno battendo in questi istanti la notizia che il premier greco Alexis Tsipras e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sarebbero sentiti oggi per telefono. Beh, intanto sarebbe interessante sapere chi ha pagato, cioè chi chiamava chi. Vista la situazione, quantomeno eleganza vorrebbe che chiamasse la Merkel, visti i conti della Grecia, e poi sarebbe interessante sapere anche cosa si sono detti, ma altro non abbiamo come notizie, e allora andiamo, come notizie sulla Grecia e su questa telefonata, e allora andiamo al Consiglio dei Ministri che dovrà dare domani l'ok definitivo al contratto a tutele crescenti, quello previsto dal Jobs Act, dalla riforma del mercato del lavoro, e ci sarà anche il nodo dei licenziamenti collettivi che da quello che si è visto sembrava essere uscito dal Jobs Act. Il CDM dovrebbe poi occuparsi anche del disegno di legge sulle liberalizzazioni, che dovrebbero contenere anche alcune novità per il settore internet, una norma anti-Google, da quello che si è capito, su un modello spagnolo con l'obbligo dei siti aggregatori di notizie di pagare un compenso agli editori. E poi la liberalizzazione sulla vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie, novità per notai, avvocati, compagnie assicurative e settore elettrico, infine alcune normative fiscali con possibili modifiche alla soglia di non punibilità. Il ministro Poletti ha oggi precisato dal 1 marzo le aziende potranno assumere con le nuove regole, quindi a tutele crescenti e anche con la decontribuzione per chi assume una persona a tempo indeterminato se è sei mesi che questa persona non lavora. Poletti. Domani il Consiglio dei Ministri approverà in termini definitivi ed applicabili quei decreti. Io non so se è, tra virgolette, un record, non mi interessa moltissimo, però, come posso dire, mi sento orgoglioso del fatto che questo governo e questo Parlamento, perché il Parlamento ha fatto la parte che competeva, è stato capace di produrre in 40 giorni i decreti attuativi. Le aziende italiane dal 1 di marzo potranno assumere secondo le nuove regole. A me pare che questa sia la prova provata del fatto che le cose si possono fare. Insieme a questo, domani approveremo un altro decreto che riguarda la riforma dei contratti, perché avere scelto il contratto tutele crescenti e lasciare tutto intorno quello che c'era prima sarebbe ingiusto, sarebbe sbagliato e inefficace. Noi vogliamo accompagnare la scelta del contratto tutele crescenti con una rimodulazione, una ridefinizione di tutte le altre tipologie contrattuali, e domani lo faremo e quindi continuiamo con questo percorso. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera, ben tornato. Allora Guido, domani licenziamenti collettivi che potrebbero essere esclusi, se ho ben capito, tempo determinato 36 mesi, ma aggiornaci tu, le collaborazioni e le mansioni. Restiamo sul Jobs Act per un momento, prego Guido. Sì, diciamo che domani dovrebbe essere la giornata in cui viene fissato, come ha detto il ministro Poletti, che dal primo di marzo scattano le assunzioni con il nuovo contratto per le tutele, a tutele crescenti, e questo credo che sia, diciamo, confermato, mentre invece ci sono altri, così come confermato per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, il tetto che resterebbe a 36 mesi, mentre invece ci sono, diciamo, ci sono dei dubbi in più per quanto riguarda il discorso dei contratti collettivi, dei contratti collettivi, dei licenziamenti collettivi. E io qui, siccome ci sono, diciamo, varie ipotesi, tra cui la prima, quella che il governo va avanti come si è detto fino adesso, la seconda che fa riferimento a quelle che sono state le indicazioni che sono arrivate dal Parlamento, in particolare dalle commissioni lavoro di Camera e Senato, in particolare di Damiano del PD, e che quindi potrebbero esserci delle modifiche per reintrodurre la forma di tutela reale. La terza ipotesi, secondo me, che è quella, diciamo, su cui potrebbe finire, diciamo, sostanzialmente con un rinvio, con uno stralcio, e quindi la materia verrebbe sostanzialmente rinviata per evitare tensioni, che è un po' la stessa strategia per certi aspetti che riguarda alcune parti della famosa delega fiscale che sappiamo. E lì volevo arrivare, perché qui si intrecciano politica da un lato e tenuta della maggioranza da un lato e norme, perché per quello che riguarda i licenziamenti collettivi, come tu ricordavi, c'è la minoranza del PD che è molto contraria da questo punto di vista, e mentre per quello che riguarda le modifiche alla soglia di non punibilità, da più parti si è detto, si è scritto, forse Renzi la userà come, passatemi il termine, arma, come elemento di trattativa con Berlusconi dopo la rottura che si è avuta con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Allora, secondo te, politicamente, a Renzi conviene avere, diciamo, la minoranza del PD in subbuglio mentre c'è questo tentativo di corteggiamento di Forza Italia con il nuovo centrodestra per le elezioni regionali? No, infatti per questo io penso che si faccia, diciamo, uno a uno con un doppio uno. Rinvio. Cioè, no? Un rinvio per non avere la minoranza del PD contro sui licenziamenti collettivi, e un rinvio anche sulle soglie di impunibilità, ma quello è per non irritare Berlusconi o per tenere Berlusconi così sulle spine? Ma insomma, sono un po' tutte e due le cose, e sono, e teniamo conto anche di una scadenza politica che è quella delle regionali, per cui io credo che Renzi voglia scavallare, diciamo, quella scadenza, quell'appuntamento, e quindi anche per non trovarsi da questo punto di vista in tensione nel rapporto con la minoranza all'interno del partito. Quindi mi sembra quelle che siano materie, diciamo così, che potrebbero essere avviate, diciamo, a un secondo tempo, diciamo, anche per ragioni politiche. Secondo tempo che, se ho ben capito, Guido tu individui nel post elezioni regionali? Sì, direi proprio di sì. Quando si capirà a questo punto, diciamo, i rapporti di forza, e anche a questo punto non vi sarà più l'operazione assolutamente legittima di avvicinamento tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Da questo punto di vista abbiamo visto anche gli imprenditori essere un po' preoccupati sul fronte della normativa fiscale. Qui va chiarito che la normativa fiscale, nella soglia di non punibilità, dovrebbe iniziare a distinguere anche quando tu, per esempio, fai un errore di carattere contabile, perché un bilancio, attenzione, non è una tavola della legge, fai un errore di carattere contabile e dici sbagli una previsione, ma è un errore, o quando invece tu metti da parte i fondi neri e accantoni. Sì. No. Perché su questo mi sembra che la legge della frode documentale, no? Che voglio certo. dire, ecco, quindi vuol dire siamo è diverso da un errore contabile, no? Quindi ecco, quindi su questi terreni bisognerebbe distinguere. E lì vedremo poi quale sarà anche e cosa capiterà dentro la maggioranza. Sono dell'idea che tu abbia più che ragione, poi vedremo domani come andrà il Consiglio dei Ministri, cioè che non convenga avere il fronte aperto con la minoranza del PD sui licenziamenti collettivi e tutto uno scontro sulle normative fiscali, che comunque tu la prendi quella materia o dai contro Berlusconi o gli fai un favore, quindi hai contro un'altra parte, diciamo, della coalizione di governo. Non so se il ragionamento è chiaro. Quello che ha detto Poletti, ha confermato oggi invece il ministro del lavoro Giuliano Poletti, ha confermato che il governo sta pensando di fare un'operazione che blocca la possibilità di fare nuove collaborazioni a progetto, e su quelle che ci sono bisognerà cercare di trovare una modalità di gestione della transizione, perché sennò rischi di avere quelli vecchi con il vecchio Coco Pro e quelli nuovi a tutele crescenti. Per quello che riguarda invece la parte liberalizzazioni, faccio notare che il ministro allo sviluppo Federica Guidi diceva che a lei non risultava un decreto sulla quella parte del DL concorrenza che riguarda la liberalizzazione. Alcune ipotesi erano che venisse stralciata quella parte del disegno di legge per diventare un decreto del governo. Il ministro Guidi ha smentito, o perlomeno a lei non risultava questa ipotesi. Grazie anche a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Un auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.